una setta di illuminati, Majestic 12 comandati, mandati di morte e ribellione, e mala suerte per le strade rivolte. Italia svegliati, politici corrotti e botte rotte infrante, sogno gigante di mezzate vite, noi isolate anime addormentate. Svegliatevi, moneta sovrana, filigrana da stampare, debito da colmare, banche corrotte, mala suerte, mafie armate contro il Quirinale. Isolate voi, menti, noi ridotti a stenti, schiavi, servitori e servitù, servienti, genti e fame, malintenti di una classe di politici latenti, comandati e ricattati da criminali illuminati. Mente umana, illuminati, non illuminati. Troppo ha sofferto umanità dietro amnestie di politici e sorte di bimbi imprigionati da futuri incerti. Quanti soldi da me rifiutati per scrivere versi malati di un'Italia. Ora noi insanguinati da fogli taglienti, montagne di cuori piangenti, taglienti politicizzati contro il benessere di una nazione, ridicolizzati, ribelli pure nostre rime contro deteriorate anime, noi torture e fame, 0,1% d'arricchimento del povero sputo, l'opprobrio dentro, nell'oblio al quale ci sottopongono, impongono e tolgono pure al malato, tagliato, tagliata vita, pure rifiuto di un bacio nostro. Stato mostro, opprobrio mostro, elaborato, progettato, 5G controllati noi, saremo burattini del potere, ma il nostro canto verrà in aria comunque librato. Non mi avrete, non ci saremo, non saremo mai controllati abbastanza. Una setta di illuminati, Majestic 12 comandati, mandate di morte, ribellione e mala suerte per le strade rivolte. Italia svegliati, politici corrotti e botte rotte infrante, sogno gigante di mezzate vite, noi isolate anime addormentate. Svegliatevi, moneta sovrana, filigrana da stampare, debito da colmare, banche corrotte e mala suerte, mafie armate contro il Quirinale. Isolate voi menti, non ridotti a stenti, gente per fame, malintenti di una classe di politici latenti, comandati e ricattati da criminali illuminati. Mente umana.